Pazzi del 99. Ritratto di una generazione a cavallo fra due secoli. Di Maria Piera Ceci. Li ho visti i ragazzi del 99. Andavano in prima linea cantando. Li ho visti tornare in esigua schiera. Cantavano ancora. Cantavano i ragazzi del 99, come racconta il generale Diaz, quelli nati nell'ultimo spicchio dell'Ottocento e che finirono, gran parte di loro almeno, sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. E cantano a loro modo anche i ragazzi del 99 di oggi, quelli nati nell'ultimo spicchio del Novecento invece, e che quest'anno, per fortuna, in guerra non li chiama nessuno, perché i tempi sono un po' diversi e per diventare grandi non hanno bisogno di passare per una trincea. I nostri ragazzi del 99 quest'anno compiono 18 anni, diventano grandi fra i banchi di scuola, viaggiando, facendo volontariato, sport, insomma, oggi si diventa grandi in ben altro modo, per fortuna direi, ma c'è un filo che lega sempre le varie generazioni, alcuni tratti dell'età restano gli stessi di secolo in secolo, allora è proprio questo filo che vogliamo scoprire in questo programma di Radio 24 con cui vi stiamo tenendo compagnia quest'estate. Quali sono le passioni, i desideri, le paure di questi ragazzi, millennials, ultimo modello, la generazione Y, qualcuno la chiamata così. Cosa c'è dietro queste definizioni buone per tagliar fuori un po' di sfumature? Ne parliamo oggi con una rappresentante di questa classe 99 molto speciale, una che sicuramente non ha paura di questo microfono, che se ne intende parecchio di telecamere e soprattutto di chiacchiere. Benvenuta a Lea Cuccaroni. Grazie. Ciao Lea, allora tu della rete ti nutri. Allora, anche io ho usato la rete per preparare questa intervista. Definizione che ho trovato su di te: 17 anni, una delle maggiori esponenti della nuova generazione di influencer che raccontano sul web se stessi, la propria quotidianità, le passioni, per condividerla con i followers. Il suo canale Eileus, giusto, conta più di 270.000 iscritti grazie ai suoi video di vlog, video tag, moda e canto. Tutto giusto? Tutto giusto. Ok, la rete ha detto giusto. Allora, fra pochissimo parleremo di questa tua attività. Prima però raccontaci un po' la Lea 17enne di tutti i giorni, perché insomma tu fai un video a settimana più o meno. Sì. Ma poi c'è tutta un'altra Lea, immagino, no? Certo. Oltre il video. Raccontaci un po' di te. 270.000 followers, amici non si possono definire, no? Che cosa sono per te queste 270.000 persone che seguono i tuoi video? Beh, diciamo che io li vedo anche come degli amici, perché alla fine sono sempre persone che hanno più o meno la mia età, quindi diciamo che vanno dai 12 anni fino ai 18, proprio come me. E quindi per me sono proprio i miei coetanei con cui io chiacchiero quotidianamente o una volta a settimana tramite i miei video su YouTube. E niente, sono delle persone con cui condivido tutto ciò che faccio, quello che mi piace, quello che penso e così via. Amici veri in carne ed ossa invece quanti ne hai? Beh, diciamo che quelli buoni si contano sempre sulla mano. E poi vabbè, nel senso, tutte le persone che conosco a scuola, di altre scuole, conoscenti, tanti. Partiamo dalla scuola, che sarà l'altra parte di te, insomma, importante, no? Sì. Che scuola frequenti? Allora, io frequento il liceo linguistico, sto facendo. Veleggi verso la maturità ormai? Sì, ho finito il quarto anno, quindi l'anno prossimo mi aspetta la maturità. Studio inglese, francese e spagnolo. E come va? Bene, bene, mi piace tantissimo l'indirizzo che ho scelto, perché proprio trovo che sia la cosa giusta per me, perché a me le lingue piacciono veramente tantissimo e il mio desiderio è quello di viaggiare e scoprire il mondo tramite le lingue. Per cui ti serviranno. Quali sono, esatto, le materie preferite? Quindi le lingue? Sì, l'inglese è proprio la preferita in assoluto. E poi diciamo mi piace anche molto il francese e anche italiano mi piace come materia. I tuoi amici, puoi avere ogni tanto un po' di timore che degli amici stiano con te o si dimostrino tali perché sei quella che sei, perché sei una ragazza famosa, perché sei una ragazza che appare? Allora, secondo me no, non mi sono mai posta questo problema, perché innanzitutto i miei amici li conosco da molto molto tempo, quindi diciamo che anche nonostante la mia attività, chiamiamola così, non sono mai stata preoccupata di questa cosa, perché proprio siccome li conosco da molto, questa sai cosa, che sono sinceri, esatto, e poi YouTube è una parte di me e ovviamente loro la prendono come una parte di me, non come una cosa che mi caratterizza fin troppo, nel senso che io per loro sono sia YouTube che tante altre cose, cioè Lea. Ti vogliono bene per quello che sei, al di là di quello che mostri nel video, insomma. E poi penso anche che non mi è mai capitato di avere la sensazione che qualcuno stesse con me solamente perché ho 270.000 iscritti su YouTube, e secondo me questa è una cosa molto positiva. Sei sicura che sapresti riconoscerli? Sì, secondo me sì, perché comunque le persone manifestano ciò che provano per te sempre, e bene o male si può riconoscere una cosa del genere, secondo me. And in time, this one reminds the other of a past, a life lived much too fast to hold on to. How am I losing you? A broken house, another dry month waiting for the rain. And I had been resisting this decay. I thought you'd do the same. But this is all I ever was, and this is all you came across those years ago. Now you go too far. Don't tell me that I changed, because that's not the truth. And now I'm losing you. Where I used to end was where you start. You were the only one. And now I see your eyes move too fast. You were the only one. L'abbiamo conosciuto un po' meglio, la Lea Cuccaroni a telecamere spente. Ora accendiamo invece il rec. Sarai abituata a questo gesto. Allora, com'è nata questa cosa dei video? Per caso? Come ti sei trovata? Allora, quando ero alle medie ho cominciato a guardare i video su YouTube di ragazzi inglesi, proprio perché a me è sempre piaciuto appunto l'inglese, e ho iniziato con il mio primo computer ad andare un po' in giro su internet, e ho trovato appunto i video di Zoella, piuttosto che, non lo so, Pointless Vlog, così. E guardandoli mi sono piaciuti veramente molto, al che ho deciso di cominciare a fare i miei primi video. Ovviamente non li pubblicavo perché ero veramente piccola, avevo tipo 11-12 anni, però ho iniziato un po' a prendere la mano, a gestire il computer, magari programmi per editare, cose così. Fino a quando in terza media, tra la terza media e la prima superiore, mi sono detta: perché no? Alla fine mi piace farlo, mi piace parlare, mi piace condividere le cose. Allora le ho caricati e niente, ora sono arrivata qui. Quanto ci hai impiegato quindi per arrivare a tutti questi followers? Insomma, è stata una cosa progressiva? Sì, sì, assolutamente progressiva. Racconti momenti della tua vita quotidiana. Io mi sono divertita un po' in questi giorni a vedere i tuoi video. Racconti quando ti alzi, quando vai a scuola, insomma quello che fai, quando ti trucchi, quando sei, anche quando sei in bagno. No, quello no. Eh sì, quando ti trucchi sei in bagno. Conosco tutto il tuo bagno, ma no, sono soprattutto nella tua cameretta. Tu come ti spieghi questo successo? Perché comunque racconti cose che potrei sentire da mia figlia, dalle sue amiche, certo, da tantissime altre ragazze. Non è che racconti delle cose speciali, forse le racconti in modo speciale, però nei contenuti non sono cose particolarmente importanti. Tu come ti spieghi tutto questo successo? Allora, all'inizio non me lo spiegavo, nel senso mi chiedevo anch'io perché, però poi alla fine ci ho riflettuto un po' e credo che sia perché sono molto spontanea, non so come dire. Io davanti alla telecamera sono come sono davanti ai miei amici, quindi forse questa è proprio la cosa che lega me e i miei iscritti, e le persone è che mi guardano. È come se fosse una loro amica. Sì, è come se fosse una chiacchierata, esatto. E secondo me è per questo, perché ci si sente proprio attaccati a una persona che non si conosce veramente nella vita reale, però è come se fosse così, perché condivido talmente tante cose nel mio modo di essere Lea, che poi alla fine ci si lega e si crea anche un rapporto bello, secondo me. Che cosa pensi quando ti rivedi nei tuoi video? Cioè, ti piaci, non ti piaci? Butti in rete il primo che ti viene oppure li rifai varie volte? Allora, dipende. Sempre il video mi deve piacere, perché sennò mi sento proprio a disagio a pubblicarlo. E poi allora, sei severa con te stessa quando sì, fai sì, moltissimo. Poi devo dire che allora, quando li guardo da sola mi piacciono. Se c'è qualcuno che li guarda con me, qualcuno che conosco che li guarda con me, che non appartiene al mondo di YouTube, mi sento troppo a disagio. Cioè, per esempio, se li guarda mia mamma assieme a me, mi sento a disagio, le dico: mamma, guardalo da sola. Come se un po' ti vergognassi, sì, ancora, sì, sì. Come se non lo vedessero abbastanza persone, insomma, no, non ci pensi se... mentre lo esatto, giri. Esatto, cioè, nel senso, per me è talmente una cosa naturale che poi, per esempio, quando lo vede la mia amica di fianco a me o mia mamma di fianco a me, mi sento ancora un po', dico, sì, ma guardalo da sola, dai. E c'è qualcosa che vorresti ancora migliorare? Sì, sì, sì, sicuramente, per esempio... la mia pigrizia. Che però quella non si vede sui video. No, non si vede, però a volte magari carico il video in ritardo perché dico: vabbè, oggi ho fatto questo, allora oggi... Sei stanca, sì, esatto, sono stanca, non l'ho edito, dai, lo carico mercoledì al posto di martedì. Poi non lo so, magari vorrei essere un po' più timida a volte. Perché di solito i ragazzi dicono: mi devo aprire. E invece tu no, mi devo chiudere un po'. Perché sono abituata a parlare tantissimo e magari a volte dico troppo e vorrei riuscire a calibrare questo troppo. In certi momenti capisci, esatto, che forse dovresti stare un po' più attenta a quello che dici, come, esatto, lo dici. Ho capito. Senti, i tuoi genitori che dicono di questa tua attività? Ti hanno sempre appoggiato oppure all'inizio erano perplessi? Come è andato il rapporto su questa cosa specifica? Allora, all'inizio mia mamma non voleva assolutamente per alcuna ragione al mondo. Poi però diciamo che io sono una persona che fa un po' le cose di testa sua. Le ho detto: sì sì mamma, non ti preoccupare, ci penso io, stai tranquilla, non mi succede niente. Lei si è fidata di me, ha fatto molto bene. e ora mi appoggiano tantissimo, sono molto orgogliosi di me entrambi i miei genitori. Sono fieri, non sì, ti sì. dicono, non so, perdi troppo tempo dietro a no, questa no, cosa assolutamente no. E tralasci cose più importanti. No no, anzi, mio papà è sempre stato il primo che magari mi comprava la videocamera o mi ha comprato il mio primo computer, proprio perché ha sempre visto che questa era una mia passione e mi ha spronato anche ti a fare queste cose. Sì, sì. Ma ti ha incoraggiato perché loro credono che sia una cosa bella per te, per cosa? Come sbocco lavorativo, come formazione tua personale? Cioè, che cosa vedono in questa tua esperienza? Io credo che, allora, all'inizio mi spronavano perché semplicemente perché mi divertivo e così via. Adesso che è iniziata comunque a diventare una cosa un po' più seria, oltre ad essere molto contenti, ovviamente cercano anche di farmi capire che cosa voglio veramente dalla vita, anche magari da questa attività che mi ha portato a fare tantissime esperienze, anche banalmente stare su un palco e cantare davanti a tante persone, parlare davanti a tante persone. E come dicevi tu, proprio come sbocco lavorativo, sì, adesso come ci vedono lavorativo. Uno sbocco lavorativo, certo, vedono lunga giustamente i tuoi genitori. Invece i tuoi professori che dicono di tutta questa cosa? Allora, mi ricorderò per sempre un giorno che sono arrivata in classe e il mio professore di italiano mi ha detto: ma lei ti ha visto su internet? E io ho detto: già. Eh beh sì, è un po' imbarazzante, cioè non so come lo dire. Lo sanno i tuoi professori? Sì, sì, sì, lo sanno. Da una parte mi fanno i complimenti, dicono comunque brava, nel senso ci vuole comunque coraggio a fare una cosa del genere, bisogna essere anche spontanei, appunto, come dicevo prima. Però dall'altra parte a me suscita molto imbarazzo questa cosa, perché alla fine sono le persone che mi valutano tutti i giorni, che poi vedono anche una parte di me che magari è un po' più, non so, un po' più sciocca, un po' più spensierata, così. Perché... frivola, dai, esatto. Sciocca è un po' troppo, frivola magari. Sì, perché poi tra i banchi mi vedono sempre molto seria, comunque... A scuola come sei, infatti? No, allora a scuola sono sempre abbastanza riesci concentrata. Riesci a stare zitta intanto a scuola? Seduta al banco zitta? Non ti vedo. Non secondo ti me sì, poi magari per loro no, non lo so, però nella mia testa io penso di stare abbastanza zitta, comunque no, io seguo le lezioni, le seguo anche attentamente. Quanto hai in condotta? Allora, ho sempre avuto 10. Oh là là, sì. Complimenti. Spero non mi diano mai 9. Bene, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo insieme con i ragazzi del 99 con Lea Cuccaroni. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, se pensate che il pop coreano dei BTS non invaderà mai le discoteche europee, se pensate che 20 milioni di persone a rischio carestia in Somalia, Sud Sudan, Yemen e Nigeria non ci riguardino. This is just one of many camps for displaced people in Somaliland. They get some water from aid agencies. E se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Giornalisti, fotografi, politici, attivisti e analisti, i migliori e i più preparati, vi racconteranno la grande attualità internazionale e i temi del nostro tempo. Ogni giorno vi racconteremo come un battito d'ali dall'altra parte del mondo può scatenare tempeste anche su di noi. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun Luogo è Lontano, da lunedì al venerdì alle 16 e tutte le domeniche alle 19:10, qui su Radio 24. I ragazzi del 99. Insieme con Lea Cuccaroni e i ragazzi del 99. Allora, Lea, il tuo rapporto con il denaro, perché questo è un divertimento, è nato come divertimento e forse lo è ancora, perché certo, insomma, si vede che lo fai anche perché ti piace, insomma, però in effetti non ci possiamo nascondere che si sta quasi trasformando in un lavoro e che comunque ti dà una sorta di reddito. Qual è il tuo rapporto con il denaro? Per quanto riguarda il mio rapporto con il denaro, in questo mi aiuta tantissimo mio papà, che appunto mi ricorda sempre che devo stare calma, e quindi diciamo che è lui che... Che non è la tua dote principale. Esatto, no, per niente. E lui mi aiuta a gestire appunto tutta questa parte economica, cioè pensa tutto lui, almeno fino, cioè per adesso pensa tutto lui. Anche perché sei minorenne, giustamente. Esatto. Per te è importante il denaro? Ma o in realtà, al momento non tanto? Cioè, no, nel senso, non è il motivo principale per cui io faccio questo, quello che faccio, perché alla fine è nato come un hobby e io voglio che resti il mio hobby. Che lavoro vorresti fare? Perché insomma, si avvicina la maturità, quantomeno dovrai scegliere l'università o comunque un percorso di studi. Ci hai già pensato? Sì, sì, allora il percorso di studi ci ho già pensato, mi piacerebbe fare comunicazione. E la vorrei, ne sai già qualcosa del resto. Sì, esatto. La vorrei anche fare all'estero, proprio perché mi piace viaggiare, mi piacciono le lingue, vorrei proprio approfondirne una particolarmente. C'è un paese che ti interessa più degli altri? Sì, allora io ho guardato anche per l'università, per esempio in Olanda, ad Amsterdam, che è una città che mi piace molto proprio per il suo stile di vita, che è molto libero, bello. Ci sei stata? Sì, con i miei genitori. E poi mi piace anche l'Inghilterra, però appunto devo un po' decidere tra i due, forse preferisco l'Olanda. Sembri sempre molto sicura di te davanti alla telecamera, quindi non ti vedo fragile per niente, però avrai i tuoi angolini di fragilità. Certo, ma ce li hanno tutti. Mm. E chi è che ti mette insieme i pezzi quando hai questi momenti di fragilità? Beh, dipende, mia mamma, i miei amici, però diciamo che non mi piace tanto condividere la mia fragilità anche con le persone che mi sono più vicine. Cerco sempre di sistemare i pezzi da sola. Cavartela da sola? Sì. Ma secondo te questa generazione è più fragile, al di là di te, è più fragile di quella che di quelle che sono venute prima, oppure così è una leggenda metropolitana, o siamo noi adulti che vediamo sempre nella generazione dei più giovani delle persone fragili, secondo te? Allora, secondo me siamo fragili, però senz'altro in modo diverso, nel senso che se siamo fragili lo mostriamo molto di meno, proprio per l'avvento dei social, perché sui social alla fine si fanno vedere praticamente solo le cose belle, non emergono mai gli aspetti più negativi della vita quotidiana, quelli si tengono sempre un po' per sé. Quindi magari fragili in quel senso che quando succede qualcosa di brutto o quando si ha un problema, ovviamente non si condivide e si tiene solamente per sé. In questo penso sì che siamo più fragili. TV. Mm-hmm. Come la usi? La guardi TV tradizionale o Netflix? Allora, la TV tradizionale la guardo veramente, veramente poco. Anche perché è sempre impegnata a casa mia, la guarda sempre qualcuno e quindi non la posso mai vedere io. Hai fratelli? Sì, una sorella più piccola. Però sì, di solito, cioè, non mi viene neanche da guardare la TV tradizionale o Netflix. Magari guardo Netflix sulla TV, però sì, o guardo Netflix o comunque bazzico su E come internet. Ti informi su quello che accade fuori dalla tua cameretta? Allora, no, la mattina guardo sempre il telegiornale, sempre, anche la sera. Mm-hmm. Sì, anche la sera. Abbiamo questa abitudine, la mattina quando ci si sveglia si mette il telegiornale, sia perché è il telegiornale, sia anche perché c'è l'ora scritta sotto. Esiste anche la radio, eh? Sì, la radio in macchina la sentiamo, però... E quindi ti informi attraverso televisione e, sì. E radio, giornali, niente? Magari dal telefono, perché non mi è mai capitato di andare a comprare il giornale cartaceo, il quotidiano cartaceo o ancora. Però diciamo che se c'è a casa magari lo leggo, che lo compra mio papà. Se no altrimenti dal telefono. Dal telefono, sì, certo, sì, sì. Quindi la rete, ti informi, sì, sulla, sì, rete. Ok, da quest'anno in poi voterai. Voterò. Ti va di fare questo passo? Ti informi sulla politica o non te ne frega niente? Allora, diciamo che ho iniziato ad informarmi lievemente appunto quest'anno che ho finito la quarta, perché a scuola abbiamo iniziato un po' a parlare anche di queste tematiche. Poi c'è stata, vabbè, l'elezione del presidente americano, quindi ci siamo anche un po' informati su tutti i vari sistemi elettorali che ci sono un po' in giro per il mondo. E mi interessa, ma fino a un certo punto, non so come dire, sono veramente fin troppo poco informata per poter dire di avere una posizione forte, ferma. Però nel senso, mi rendo conto che adesso che comunque avrò la possibilità di votare, dovrò prendermi le mie responsabilità e informarmi ovviamente per fare poi le mie scelte. Sabato sera che si fa? Allora, sabato sera dipende, si può uscire con gli amici, tipo, non so, uscire a cena per esempio, poi comunque fare qualcosa di tranquillo. O magari mi è capitato anche un po' di volte, magari quando c'è un'occasione speciale, di andare per esempio a ballare. Oppure quando ci sono i diciottesimi, che è bellissimo, vado ai diciottesimi. È l'anno dei diciottesimi. Sì, che bello. È un orario di rientro? Diciamo che torno sempre verso mezzanotte e mezza, l'una, mai più avanti. Però diciamo che i miei genitori hanno smesso di darmi un vero e proprio coprifuoco da pochissimo in realtà, perché prima era mezzanotte a casa. Quale pensi che sia il valore che i tuoi genitori ti hanno comunicato e trasmesso e che tu ritieni più importante, quindi che condividi, insomma? Allora, una delle cose più belle che secondo me mi hanno insegnato i miei genitori è il rispetto per gli altri, che a volte magari guardandomi intorno vedo che manca. E io è una cosa a cui tengo molto personalmente, essere comunque rispettosa nei confronti di chi mi sta intorno. Che significa? Significa non ingannare, significa... Esatto, essere onesti o magari, ma anche banalmente, non so, rispettare un orario piuttosto che rispettare una consegna, piuttosto che mi sono messa d'accordo con questa persona, rispetto il mio impegno, ma anche rispetto per esempio nei confronti di un adulto. Vedo tanti ragazzini che magari anche con i professori banalmente non sono minimamente rispettosi, no? Cercano di fregarli. Esatto, esatto. Bisogna comunque essere onesti, trasparenti e portare rispetto verso le persone più grandi, ma anche verso i propri coetanei, le persone che... Quindi ci è quello che intorno. Cerchi anche nei tuoi amici? Sì, esatto. These streets are yours, you can keep them. I don't want them. They pull me back and I surrender to the memories I run from. Oh, we have paved these streets with moments of... Thank you. Streets dei Bastille, che ti piacciono un sacco, visto che è anche uno dei pochi CD, anzi sì, due o sì, tre sì, dei pochi CD. Sì. Cosa ti piace di loro? Mi piace tantissimo il cantante, come canta, mi piace veramente tantissimo la sua voce, mi piace il genere musicale da morire, mi piacciono tutte le canzoni, non ne trovo una che non mi piaccia veramente. Signor Potter, la nostra nuova celebrità. Film preferito, Harry Potter. Proprio così. Eh sì, l'ultima volta che sei andata al cinema? Allora, sono andata pochissimo tempo fa a vedere I Pirati dei Caraibi. Ok, quindi è quello il genere, fantasy? Ma in realtà, allora, io con i film non ho un bellissimo rapporto, nel senso che non mi piacciono i film, mi annoiano, preferisco molto di più le serie TV. Tu leggi molto? Sì, mi piace molto leggere. Ti piace leggere, leggi quello che ti danno da leggere a scuola oppure te li scegli da solo? Allora, leggo anche quello che mi danno da leggere a scuola, però mi piace molto di più scegliere i libri personalmente, nel senso che... Ne hai scelto uno molto bello, L'ombra del vento. Sì, io adoro Zafon, ho letto tutti i suoi libri, mi piacciono tantissimo. Isaac ci invitò a entrare con un lieve cenno del capo. Dall'atrio, immerso in una penombra azzurrina, si intravedevano uno scalone di marmo e un corridoio affrescato con figure di angeli e di creature fantastiche. Seguimmo il guardiano fino a un ampio salone circolare, sovrastato da una cupola da cui scendevano lame di luce. Era un tempio tenebroso, un labirinto di ballatoi con scaffali altissimi, zeppi di libri, un enorme alveare percorso da tunnel, scalinate, piattaforme, impalcature, una gigantesca biblioteca dalla geometria impossibile. Una persona che ammiri particolarmente, magari donna, e così, una persona che ti ha ispirato. Allora, ispirato è una parola molto molto grande, però diciamo che ammiro tantissimo Emma Watson, che poi tra l'altro è l'attrice che fa Hermione Granger in Harry Potter, e lei mi piace veramente molto, sia perché è proprio una donna molto elegante, poi anche perché è molto molto forte, è un personaggio comunque attivo sempre nel sociale, è ambasciatrice dell'ONU e poi è anche promotrice delle attività femministe, però sempre comunque caratterizzata da questa appunto eleganza, femminilità, che secondo me la rende veramente un personaggio interessante. Ti ci vedi tu fra 10 anni ambasciatrice dell'ONU? Boh, non lo so. Ti piacerebbe abbracciare qualche causa da questo punto di vista? Beh sì, no? Dal punto di vista dell'emancipazione femminile sì, anche perché io faccio parte di una classe di sole donne, io e le mie compagne di classe siamo tutte ragazze e siamo sempre state un po' caratterizzate dalla classe di tutte donne, quindi sono stupide. La classe delle galline? Sì, sì, proprio così, e quindi diciamo che la sento questa cosa, perché soprattutto magari quelli degli altri indirizzi, tipo lo scientifico così, vedono la classe del linguistico tutta femminile e dicono ah sì, ma tanto sono donne. Cosa vuol tanto dire? Tanto sono donne cosa? Appunto, cioè, non so. Come ti vedi fra 10 anni? Allora, non lo so. Mi vedo a lavorare, spero, nel mondo della comunicazione, comunque spero con le persone. Mi vedo anche sposata, perché mi con piacerebbe... Con dei figli, ti piacerebbe avere dei figli? Sì, sì, mi piacerebbe molto. Adoro i bambini. Tu lo sai chi sono i ragazzi del 99 che hanno dato il nome a questa trasmissione? Sì, allora, sono coloro che... Cioè, sono i ragazzi che sono stati gli ultimi ad andare in guerra, poiché erano i più giovani, cioè sono stati i più giovani a partecipare alla Prima Guerra Mondiale. Lo sapevi o ti sei preparata? No, mi sono anche preparata, ti sei anche però... preparata. Cioè, potevo... immaginarlo. Ma ti ha fatto un po' impressione pensare che, vabbè, tu sei una donna, quindi non ti sarebbe successo 100 anni prima, però dei ragazzini della tua età sono diventati grandi, non davanti a una telecamera, non nella propria cameretta, non a scuola, ma sui campi di battaglia. Ti fa impressione pensarci? Ci hai riflettuto? Certo, molto. Comunque, nel senso, anche studiando la scuola si percepisce che è una realtà veramente faticosa da affrontare, anche perché poi coloro che tornano dalla guerra sono comunque molto segnati da questa cosa, non è un'esperienza... Devastati. Esatto. Grazie a lei, a Cuccaroni. Grazie. Grazie per essere stata con noi, per averci raccontato un po' di quello che succede fuori dai video che posti. Grazie mille. Ragazzi del 99 si chiude qui anche per questa puntata. Un saluto e un ringraziamento in regia a Paolo Corleoni. Un saluto da Maria Piera Ceci. Voglio che l'esercito sappia che i nostri giovani fratelli della classe 1899 hanno dimostrato d'essere degni del retaggio di gloria che su essi discese.